kings from the by lanes of Valeria East. Behold, Chuck D with DMC and wild, wild women. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. I'm at my girlfriend in a hotel. She looks sad, so I asked, are you okay? She said, sit your ass down, I wanna tell you some. New day, same bullshit. Where you coming from? Their eyes looking like the balls popping. Calm yourself, bro, I was just walking. We jump when they say crisscross your legs. Calling karma a bitch, cause she made you beg. I'm just traveling, rolling, growing. 19.01 sta per iniziare sugli 87.9 in FM una nuova puntata di Likewise. End of the date, now it's time for the bill. Pockets full of cash and looks that kill. Girl, I'm sure you split that shit. Wait, did the waiter just ask him my pin? Okay, with my girlfriends is a new thing. Un'oretta di musica insieme ad Antonica e Pinklo. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. I'm not sub say yeah. Sachi sub say hai. Unka trip play yeah. Kaam dhanda nahi hai. Wanna namaste. Ban diya hai khas. Wala kampar. Baat bani sa. Sangathan mein hamari itni shakti hai ki humse ab tumhari fatti hai. Tere kyu? Unneva. Jaane de. Chuke na. Morning yan. Bira na. Namara. In the cusp of 2022 blossoms a feminine revolution. Spreading positivity and light. Every day a woman's day. Every day a new fight. But we play and we play. We're doing okay. We're doing okay. We're doing okay. La nostra sigla Wild Wild Women MC. Più o meno. MCD. E ben trovate a tutte e tutte. Questa è Likewise. Siete su Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Dal sito in streaming ondarossa.info. In DAB su, cercando, anzi, perché non so più frequenze, in DAB digitale cercando Onda Rossa. Ci trovate a Roma, Viterbo e Terni. Perugia, niente, città a caso, no, Viterbo no, esatto, Perugia, Terni e Roma. Il triangolo Perugia, Terni, Roma. Likewise la potete trovare anche su Telegram, il nostro canale è likewise underscore trx 0649 1750. Per squillini e o domande e o diciamo cose che ci volete dire, mi raccomando, quando vanno i pezzi. Sì, non chiamateci nel mentre che non riusciamo. E partiamo subito, perché dopo di noi ci sono Note Cose Città, Semilla e Morfire per un lungo martedì di musica. Non volevi fare l'intervento su Sanremo? Non ho visto nulla. Brava. Ma nulla di nulla. Nemmeno nulla. Io posso neanche sempre le polemiche contare su di te. Moin, lift you. I just want to say I really appreciate this because nobody ever asks to use my voice for a track. To read in a time of war, to read it again, to think about it, to read it aloud, to record it, to try again, to listen back, to send and unsend. To worry about getting old, to feel old. To remember, I felt older before. To have experienced so much love, to have resisted, to be bitter, to think of you. To feel your mood like the weather, to not let it affect me anymore. To not let it affect me anymore. To feel angry, to know what you're talking about, to fear being taken advantage of, to fear being used, to fear being poor forever, to fear ending up on the other side of the border, to fear imprisonment, to fear detention, to fear witch hunters and their generals, to know what will happen to the people I love, to know it could happen to me, to want to flee precarity, create a structure for thinking about you and me. draw the outline of your figure in my mind. I want to lift you. I want to lift you in grace out of gravity. Smoke, to look at my phone, to blow out the smoke, to glance up, to have a bad view and try and show you, to be told it isn't clear, to feel like a failure to stop trying, to feel like a failure to stop trying, to change the subject, to prefer not to talk, to laugh, to joke, to ask some new friends. An old question that's been bothering me. Do you believe one can love unconditionally? To want to run, to want to hide, to want to talk, to die of pride. To run, to want to hide, to want to talk, to die of pride. Quanto è bello questo album, Moin è il nome della band, il pezzo che abbiamo scelto si chiama Lift You e c'è una, diciamo, la voce è bellissima tra l'altro, perfetta, anche in un altro, in Family Way, un altro pezzo di questo album di Sofia Almaria, una artista multimediale, insomma poesia e varie altre cose nella sua, diciamo, nel suo modo di fare arte. Moin invece in realtà ci riporta a un artista che passa spesso dalle nostre parti con i tanti, 100.000 progetti, esatto, i tanti progetti di cui è parte, cioè Valentina Magaletti. Forse qualcuna di voi avrà riconosciuto anche la sua, proprio il suo modo di interpretare il suo strumento, la batteria, insieme a Joe Andrews e Tom Halstead, che precedentemente erano parte di un duo, Rhyme, e che appunto a un certo punto hanno incontrato e allargato gli orizzonti della loro produzione musicale. Non di poco, perché loro alla fine erano un duo elettronico, un progetto musicale elettronico, invece qui si sono messi a suonare la chitarra, le chitarre, e devo dire che questo disco, loro non sono al primo album insieme, questo è il terzo disco che fanno insieme, e una delle cose un po' diverse dei precedenti dischi è che in questo album, invece di utilizzare, perché loro spesso usano voci, diciamo, registrate, quindi non reali, effettate, in tutto un lavoro anche lì molto particolare, ma in questo disco hanno deciso, come nel pezzo che abbiamo ascoltato, di utilizzare voci invece di persone realmente fisicamente vive, e questo cambia un po' il calore del disco, gli dà una certa umanità, sembra meno duro da quel punto di vista lì. Poi anche gli altri lavori sono molto molto belli, ma se dobbiamo trovare una sfumatura diversa in questi tre dischi in cui hanno lavorato insieme, forse è questa della voce. Secondo me questo è un capolavoro, diciamo, di piccoli proprio lo dico con poca pacatezza, nel senso che è un insieme di piccoli capolavori, ognuno a suo modo diverso. Questo pezzo è bellissimo il testo, è proprio una sorta di, diciamo, di statement, come si può dire, di manifesto emozionale, personale, bellissimo, in cui alcune delle cose mi emozionano tantissimo, che dice Sofia Almaria, ma insomma in generale è veramente un progetto perfetto, cioè non manca nulla. Quindi noi vi consigliamo di ascoltare, se non l'avete ascoltato, questo album uscito per la AD93, l'album che si chiama You Never End, perché appunto parte che noi Magaletti qualsiasi cosa fa a questo punto accendiamo le orecchie perché sempre, in genere sempre. non ci delude quasi mai. Sono le 19:10, state ascoltando Likewise, puntata numero 105, e passiamo al secondo pezzo della scaletta che in qualche modo si parla con questo pezzo, anche se le sonorità sono molto molto diverse, ma hanno un loro perché. Lei è May Simmons e il pezzo è Dumb Feeling. This is a special place, but how many days do I really feel? I think I'm special too, but how many days do I really feel? Love when the train comes to past Simmons, Dumb Feeling, in anteprima dell'album Anomaru, in uscita per la Bionic Records il prossimo maggio, giusto? 2 maggio, Pinklo, 2 maggio, giusto. Sì. Vabbè, jazz, bossa e indie pop giapponese, diciamo, è un bel mix, sì. La sua produzione musicale, è un artista di origini appunto asiatiche, giapponesi, che vive a Brooklyn, e come avete nel pezzo per esempio che fa parte della nostra seconda scelta e che andrà ad animare la scaletta delle B-Sides, canta anche in giapponese molti dei pezzi della sua produzione, è una fusion. Usa tutte e due le lingue due, all'interno sì. dello stesso brano, diciamo che non si fa scrupoli su questo. Anche noi, non so se vi ricordate, ma chi è ascoltatrice, ascoltatore frequente di Likewise forse si ricorderà che l'avevamo ascoltata col suo EP Cabo Tu Mushi, che era uscito nel 2023, e che era appunto l'EP d'esordio. Era l'EP d'esordio e già c'era piaciuta molto. Devo dire che queste due canzoni che sono i singoli, insomma, che anticipano l'uscita del disco, ci fanno già presagire un bel lavoro. Sapete, spesso non anticipiamo album che non ascoltiamo fino in fondo, ma degli artisti di cui ci fidiamo, insomma, che abbiamo già ascoltato la produzione, spesso accade, anche specie se ci piacciono già da subito le canzoni che vengono fuori. È stato registrato nel Connecticut, in una specie di studio di registrazione rurale dell'amico Charles Dahlke, e se ascoltate un po' tutto, cioè tutto l'album è impregnato, insomma, di canzoni che hanno a che fare con l'amore per la vita, l'amore per la famiglia, l'amore per la musica, l'amore per la chitarra, insomma l'amore in generale nei suoi significati e declinazioni più ampie. Ed è carino, ho trovato questa curiosità che tutto l'artwork delle copertine dei singoli e del disco che uscirà sono fatti dalla madre, e quindi tutti artisti in famiglia, che si bene. Chiama Seiko Semones. Buon per lei, che ha un buon rapporto con la mamma e in più sa anche come utilizzare, insomma, come mettere a frutto questo bel rapporto. Non sempre succede. Terzo pezzo di questa scaletta, loro sono Cloth Golden. All of those photographs from me. Truth, questo duo che viene da Glasgow, il pezzo si intitola Golden, in uscita a febbraio il loro ad aprile il loro album, scusa, che si chiamerà Pink Silence. Bene, sono due gemelli, Rachel and Paul Swinton, che appunto, come dicevamo, vengono da Glasgow. Il Polaroid era il pezzo che era uscito un po' di tempo fa, che pure avevamo ascoltato, è stato un po' nel nostro playlist. Mettiamolo. No, e poi li abbiamo messi comunque a Likewise. Sono passati, credo, la seconda stagione, se non mi sbaglio con le puntate, 56. Quindi probabilmente la seconda, sì, seconda stagione li abbiamo ascoltati col loro precedente lavoro, che era il debutto sulla Rock Action Records, che è l'etichetta del mio gruppo preferito, i Mogwai. E infatti loro, sì, insomma, hanno collaborato anche con Stuart Braithwaite dei Mogwai, insomma, in quindi quest'album, un po' quel, diciamo, quell'ambiente lì che gira intorno alla loro produzione. Vedremo che cosa ne verrà fuori con questo album. Io devo dire, un po' morbidino questo pezzo, però insomma ci piaceva ascoltare. Vedremo. Sì, vedremo, dai, è morbido, come un po' morbido l'entrata della puntata di questa sera. Il titolo dell'album dice: l'idea del silenzio rosa descrive la mattina presto o la sera tardi, quando nel cielo c'è questa sorta di strana luce eterea, e può avere due significati: qualcosa di beatamente sereno, qualcosa di carico di un reale senso di presagio. A che mi è venuto in mente ovviamente Battiato subito, Alba dentro l'imbrunire, ma queste sono cose mie. Non è detto. Invece facciamo subito uno stacchetto da una cosa morbida a una cosa meno morbida. Loro sono The Pill, Money Mullet. Money Mullet, una canzone di odio, come dicono loro, per i mullet, che sono appunto questo taglio di capelli, insomma, anche in italiano si dice così, mullet, no? Non sai che non sono non sei appassionata ai tagli di capelli. In ogni caso, questo taglio con i capelli lunghi dietro e un po' di ciuffo davanti, insomma, più o meno questa cosa qua che si portava molto negli anni 80, credo. È un po' alla, che ne so, ti ricordi? Certo che noi due a parlare di questo tema proprio zero. I capelli ricci sono molto difficili da acconciare. Vengono anche loro, se coperti, abbiamo capito che dall'isola di Wight vengono solo duo, cioè più di due non si mettono insieme a fare band. Anche The Pill, come le Wet Leg, te ne ricordi? Sono anche stata la nostra sigla. Vengono da quell'isoletta che insomma è famosa per la musica ed evidentemente Per un festival che fu forse dei tre, secondo me, anche il più bello insieme al Monte, cioè non saprei decidere se il Monterey o l'isola di Wight, ma sicuramente molto più di Woodstock, che è diventato oltremodo famoso, ma ci sono sopravvalutato. Stati un po' sopravvalutato, ma il Monterey, che era stato quando è stato nel 67 mi sa, e questo che è stato nel 70, il famoso concerto all'isola di Wight del 70, che un po' ha chiuso quell'era lì di questi mega raduni hippie, dove sono Johnny Mitchell, dei minuti fantastici. Però ecco, dai, insomma, grande isola con una grande tradizione, quantomeno. Da cui arrivano queste due musiciste con una manciata di singoli e diciamo, secondo me, belli, divertenti, ballabili, con dei testi belli, insomma, sarcastici, appassionati, ironici, divertenti, sì, molto divertenti e molto che scherzano molto e prendono per il culo tutte le norme sul genere, sui ruoli e su quello che bisogna essere secondo la società, come piace a noi, e quindi insomma ve le proponiamo, poi le seguiremo piano piano e vi racconteremo le loro vicissitudini. Sì, sì, loro dicono di fare junk food, junk punk, scusate, riappropriandosi appunto un po' di questa parola. Dice: no, a noi piace un po' questi pezzi così, che sono un po' caotici, che mettiamo tutto insieme, parliamo di quello che vogliamo, come vogliamo, non più di due minuti, anche se secondo me questi erano più di due. Però erano un po' più di due, esatto, sì, 2:40. 19:26, state ascoltando Likewise, questa è Radio Onda Rossa, e noi siamo al pezzo numero 5 della nostra scaletta di questa sera. Lei è Lucy Dacus, Big Guess. Sipping your dress, hands on your waist, kissing your neck. I love your body, I best guess at come si faceva una volta, sfuma questo pezzo. Se avete perso la ST del best guess del titolo del singolo di Lucy Dacus, che preannuncia l'album che uscirà il 28 marzo, si intitolerà Forever is a Feeling. Devo dire che questo bello è, diciamo, questo molto bello, accompagnato questo singolo che avete ascoltato da un video che sta spopolando veramente su tra diciamo chi, però? Sta se spopolando non... perché è praticamente stracolmo, intanto se l'è diretto lei, poi è stracolmo di belle lesbiche, butch e mask, come si dice, tra le giovani. Ci fanno notare, grazie per avercelo detto, che il mallet è in realtà super gettonato tra le giovani con 2G, 2V, 2N, le stra giovani, e noi non lo sappiamo, ma diciamo che è un problema nostro sia di generazionale, ma soprattutto di capelli, perché non seguiamo proprio la questione. Non possiamo, perché i ricci vanno da soli e non c'è taglio ma che grazie. Tenga. Per avercelo fatto notare, e stavo dicendo, il video, guardate, andate a cercare, che è molto bello, oltre bello perché è pieno di belle persone, ma insomma è molto bello perché è proprio ispirante, è molto divertente, è anche esteticamente molto elegante, esatto. Se possiamo, tutte comunque, non facciamo spoiler, tutte in abiti neri, eleganti, camicie bianche, molto insomma, semplici, smoking, molto minimal, come piace a noi. E sì, insomma, ci sono anche un po' di personaggi famosi all'interno del video, che ne so, Cara Delle Vigne, ma insomma tutte amiche, musiciste non di Lucy. E come sono tutte amiche anche in questo disco, perché esatto, ovviamente brava. Suonano con lei anche le Boy Genius, di cui lei è una delle anime, perché vabbè, dopo il grande successo noi aspettiamo un loro disco, ma nel frattempo forse qualcuna di loro, come lei, ha ricominciato a fare qualche progetto solista. Una cosa interessante è che ad aprire i suoi concerti, perché adesso esce l'album, lei va dritta per dritta, c'è qualcuno che ha già comprato il biglietto, che io conosco, ecco, in tour, e ad aprire i suoi concerti ci saranno Katie Gavin, la cantante dei Muna, e Jasmine Foti, che abbiamo anche ascoltato qui a Likewise. Assolutamente, anche perché anche lei è una produzione, diciamo, di questo, questo entourage, di questo gruppo di musiciste. È molto divertente, dicevo, andate a guardare il video e andate a leggere i commenti, perché sono bellissimi, ce ne sono alcuni che vi leggo così al volo. Ce n'è uno che dice: non posso sottolineare abbastanza quanto è fantastico per noi che abbiamo le mask e le butch, questo video. Normalmente, diciamo, non c'è mai nulla per noi nei video, nelle immagini, eccetera, eccetera, ma in questo video noi banchettiamo. Un'altra persona ha scritto come ragazzo trans che era una lesbica mask, mi sarebbe piaciuto come teenager vedere un video del genere e sentirmi parte di questo, di questa comunità. Quindi, insomma, molto ispirante, molto bello. Andatevela a guardare. Prossima band Feedback, My Best Friend. Your mess. Fleetbag, My Best Friend, uscito a novembre l'album che si chiama Hardcore Workout Queen per la Clouds Hill. Il video di questo pezzo che avete ascoltato è girato nella metro Battistini all'ora di punta, non so se l'hai visto. È proprio, cioè, tipo la stessa, quella che va a Battistini la mattina, è veramente incredibile. Band formatasi dopo, quando c'è la canzone. Band formatasi pochi anni fa, nel 2019, guidata da Anna Friedberg, che dà anche il nome alla band. Lei cantautrice, voce, campanacci, percussioni e chitarra, e insieme a lei ci sono Emily Linden e Cheryl Pinero al basso, Fifi Dewey alla batteria. Loro sono, si spostano tra Londra e Berlino. Io voglio sapere che ci devi dire. Non lo so che cosa ci deve dire, ma vi ricordo sempre, chiamateci mentre ci sono le canzoni e non mentre stiamo parlando, perché non riusciamo a rispondervi. Forse sono un pelino mainstream per noi come sonorità, però hanno quel suono un po' interessante, secondo me anche un po' anni 2000, non so, mi hanno ricordato i Garbage. Per a un certo punto, quando li ero ascoltati, ho detto: questo suono mi ricorda qualcosa. Mi ha ricordato i primi Garbage, quelli dell'album con le piume fucsia della copertina, il loro disco di debutto di allora, che non mi ricordo più che anno era. Ma in effetti loro hanno aperto anche i tour di Hot Chip, sì, che insomma era una band che ascoltavamo tantissimo proprio in quegli anni, e i Placebo. Quindi sì, insomma, sì, effettivamente in qualche modo rientrano, no, in queste sonorità, evidentemente, che tu ritrovavi nei loro pezzi. Mo ci puoi richiamare. Debutto nel 2021 con l'EP che si chiamava Yeah. Lo volevo dire, cioè, titolo fantastico. Pezzo numero 7 della scaletta di questa sera, il suo titolo è Sexy Clown, l'artista è Mary Davidson. Am I full of shit? I started a bit rough. Oops, did I turn you off? I should pace myself, be more coherent, keep it relevant with games and amusement. I'm such a dreamer. Oh, ain't that a bummer? You'll have to bring me down to being just a clown. It's the uneasiness of my selfishness that makes me stubborn and very slow to learn. To concede that in reality there are so many things I wish I could be. Being a pleaser, I'd love to be your bitch and offer you my heart right on a selfie stick. Then a part of me thinks, oh god, did I just say this? Really, could it be? I'd love to be a bitch. I'm ever so sorry, I don't think I fit any categories of the given. We'll be right back. is way out of fashion. You like it when I'm mean, you find it sexy. Don't get it confused, cause I do it for me. All these people, all these sounds, make the world go round and round. If I really have to choose, I'd rather be me than be you. Sexy Clown, Mary Davidson, elettronica dritta dritta dal Canada. City of Clowns uscirà il 28 febbraio. Attira la nostra attenzione un remix che era girato di Soul Wax, di un suo pezzo. Soul Wax, diciamolo che gli vogliamo tanto bene, sì, per la serie cose vecchie che ci piacciono ancora, sì, e che vanno ancora tanto. Produttrice. E tra l'altro è pubblicato per comunque un'etichetta. Con la DWI, la loro, esatto. E tra l'altro, insomma, è in collaborazione con loro. E, con insomma, è un bel progetto. È il sesto album di Mary Davidson, che insomma è una DJ e producer, come dicevo, canadese, che torna un po' alle cose più pre-pandemia, dice lei, insomma, di qualche anno fa, fondamentalmente con questa ispirazione un po' techno, sicuramente da club, ma con dei testi che non la mandano a dire. L'altro pezzo con cui eravamo un po' indecise, che è nella scaletta invece delle B-sides, che si chiama Your Asses Are Mine, giusto per diciamo chiarire, insomma, anche quello è un bel pezzo con un bel titolo e un bel testo potente. Quindi, insomma, diciamo che tutto l'album ha un tema abbastanza cupo in qualche modo. Clowns si riferisce al fatto che la maggior parte delle persone ha un clown dentro di sé, dice Davidson. Alcuni sono divertenti, altri sono timidi, altri sono contorti, altri ancora sono oscuri. Il punto è che il clown è la parte di noi che muore dalla voglia di farsi vedere nel bene o nel male. Le riflessioni, insomma, più ampie che hanno ispirato i testi di questo album vengono da un libro che si chiama Il capitalismo della sorveglianza, di Shoshana Zuboff, di cui penso anche ai microfoni di questa radio se ne è parlato quando è stato pubblicato. Sta cambiando il nostro modo di vivere, dice sempre Davidson, sta letteralmente cambiando la nostra specie, il modo in cui interagiamo tra di noi e il nostro modo in cui interagiamo con noi stessi. E quindi bello peso da un punto di vista concettuale, comunque. Sì, e c'è tanta critica della musica, di come si fa musica, di come si pensa e si lavora nella musica. Ma insomma, andatevelo a cercare, fra un po' uscirà l'intero album, quindi avrete modo di ascoltare tutta la sua produzione, di questo, diciamo, ispirata appunto a quello che dicevamo. L'ottavo pezzo di oggi è un ritorno. Ne avevamo parlato con l'uscita del singolo, che non ci era tanto piaciuto, e devo dire, insomma, abbiamo un po' di remore su questo album, che non ci ha fatto impazzire. Ma comunque, vi facciamo ascoltare questo Indio di Sharon Van Etten. To walk away into Eravamo distratte, questa era Sharon Van Etten and the Attachment Theory, con appunto l'album omonimo, uscito per la Jack Jaguar. Allora, considerazioni. Io ti dico che cosa mi fa piacere di questo album, che è comunque un progetto particolare, perché è, insomma, è la prima produzione di Sharon, in qualche modo accompagnata. Che fa? La From Woman, quella sì, insomma, più che la parte proprio di interpretazione, direi che è la parte di scrittura di questo album che si differenzia dagli altri, perché è stato scritto collettivamente, quindi in qualche modo il lavoro è diverso da quello che, a cui siamo abituate. E sicuramente questo era anche un po' l'intenzione di Sharon, uscire dalla comfort zone della sua produzione e fare altre cose, sperimentarsi su altre cose. E io devo dire che in qualche modo la cosa che migliore di questo album, personalmente, da appassionata della produzione precedente di Sharon Van Etten, è sicuramente il fatto che la sua voce in questo album mostra di essere, diciamo, bella anche in contesti musicali diversi, cioè nel senso, è secondo me un album molto poco omogeneo, che potrebbe essere una cosa positiva in certi frangenti, in questo no, è un po', secondo me è un po' confusionario, un po' troppo vario diciamo verso filoni che mi interessano poco fondamentalmente, però la sua voce in qualche modo posso dire sale insomma rispetto a questa cosa, perché si presenta appunto in contesti che, in cui normalmente non l'ascoltiamo, non l'abbiamo ascoltata fino adesso, e questo è quanto posso dire di, diciamo, beh, sei positivo. Stata bravissima. Grazie. Quindi io dirò i motivi per cui in realtà non ci aveva troppo convinto, che era come hai esordito prima di presentare il pezzo. A tratti non so per quale motivo, però risulta un po' noioso, non lo so, un po' m'annoia. Ecco, a posto. E niente. E però l'abbiamo a me, perché io non sono il metro del mondo, non sono, cioè è un... Ci ho provato più volte, l'ho anche ascoltato più volte, perché poi io non mi fermo mai alla prima impressione. Non lo so, non mi convince, non mi ha convinto, non mi convince fino in fondo. Nonostante sia una produzione molto pensata, molto curata, c'è Marta Salogni che lo ha prodotto, comunque si sente questo suono analogico, perché è stato prodotto con i nastri, quindi in realtà forse è un disco che ci porta indietro a livello sonoro, a sonorità che non siamo più tanto abituati ad ascoltare, ci sembra disturbante per quello, non lo so, però è comunque un gran lavoro, ben fatto, ben pensato sicuramente. E chi è fan di Sharon Van Etten ci scrivesse, ci dicesse la sua, likewise@andarossa.info, diteci perché vi piace, che ne pensate, o se anche a voi insomma vi ha un po' destabilizzato tutti questi cambiamenti, quantomeno che lei ha provato a mettere in campo per sparigliare le carte. Sono le 19:52, quella che state ascoltando è Radio Onda Rossa sugli 87.9 in modulazione di frequenza dall'altra parte del vetro. Sono arrivate Note Cose Città per la puntata che inizierà alle 20:15, quindi noi andiamo più o meno rapidamente a chiudere la scaletta di questa sera con gli ultimi due pezzi, vediamo se ce la facciamo, abbiamo 7 minuti, forse sì. Bye, January Blues. E questa era Gender Chores, una band irlandese giovanissima, una delle band che speriamo di sentire presto con una uscita. January Blues è il pezzo che avete ascoltato. Il tema di questa canzone è un tema che sta molto a cuore a questa giovanissima band, e parla della, diciamo, il testo di questa canzone inizia con, diciamo, una sorta di quello che fondamentalmente si dice alle ragazze quando escono da sole, a cosa devono stare attente, cosa devono temere, a cosa, per cosa devono essere super vigili, perché per evitare che gli succeda qualcosa. E insomma, c'è una frase molto bella che loro ripetono molto spesso in questo testo, se la ritrovo, dice: "We are not afraid of the dark, we are afraid of who waits there." Non abbiamo paura del buio, abbiamo paura di chi ci aspetta nel buio. E l'altra cosa interessante che vogliamo dirvi è che questa band, appunto, ripeto, giovanissima, quindi sicuramente avrà bisogno di raccogliere soldi per fare altre produzioni, invece no, i proventi di questo singolo, che potete acquistare sul loro Bandcamp, andranno a 3 associazioni diverse: Women's Aid, che è un'associazione di volontariato che lavora per fermare gli abusi domestici; Cara Friend, che è una un'altra associazione che supporta le persone della comunità LGBTQI plus, e Nexus Ni, che è un'altra associazione che dà supporto per rompere il ciclo degli abusi sessuali e delle relazioni abusanti. Quindi il tema, quello della violenza in Irlanda, nel nord Irlanda, da dove vengono loro, che è un problema gravissimo come in tutto il resto del mondo e che loro sentono particolarmente vicino. È partito il pezzo dell'ultimo della scaletta, Higher, Scrunch. Everyone's got something to talk about, but not a minute to spare, so be brief. It's always, hi, how are you happy alone? Well, it's the same old cliche, just rinse and repeat. My attention span's not what it used to be. It comes in short bursts, plagued with some misery. There's always time to find in a blink of an eye, and in that same split second, it finally aligned. Everyone's got something to talk about and a need for effective relief. It's always, hi, how are you happy alone? Well, I don't know, man, I don't know. I don't know, I'm alright for a minute, then I crack the next. I don't know if it's anesthetic or it's life, but don't touch, don't touch, don't touch, don't touch. It's a place to forget. Talk about, everyone's got something to see. Everything happens around me, but never directly. Scrounge, Higher, come piace a noi, uscito il 13 gennaio questo puntualissimo singolo. Ha finito alle 8 il pezzo. Una delle nostre band post-punk preferite di South London, molto impegnate nella lotta alla gentrificazione di questa parte della città. Almost Like You Could è l'album di cui farà parte questo singolo e che uscirà il prossimo aprile. L'idea e il desiderio di questa band è di fare più rumore possibile, e ci riescono benissimo, considerato che sono Lucy Alexander alla voce e alla chitarra e Luke Cartledge alla batteria e synth. Ah, non sono 5. No. Abbiamo detto tutto. Sì, la chitarra è molto grunge comunque. Molto grunge, anche la sua voce è molto bella, roca. Sì. Quindi insomma, ne sentirete ancora da queste parti. Likewise finisce qui incredibilmente in orario, 10 pezzi. Vedi, quando si sta sotto 33 minuti con questi pezzi, io lo dico, è il punk, è il post punk, quello dovevo mettere. Ma no, dobbiamo mettere tutto quello che ci passa per le orecchie e ci piace, perché chi ci ascolta ascolta tanta musica anche diversa, perché ci piace esplorare i generi in moltissimi modi. E sono le 20.01, Likewise vi saluta, lascia i microfoni a Note Cose e Città. Semiglia rettifico, non ci sarà Note Cose, niente, non me ne parlerò mai, nemmeno alla prossima stagione. Note Cose Città, Semiglia invece rettifichiamo, non ci sarà questa sera, ma Morfire sì. Restate all'ascolto di Radio Onda Rossa, noi ci sentiamo la settimana prossima, ciao ciao. बोला कम पार बात बनी सा संगठन में हमारी इतनी शक्ति है कि हमसे अब तुम्हारी फटती है डरे क्यों मुन्नवा जाने दे चुके ना मोरे न्यान हीरना सुपरा नम्बरा In the cusp of 2022 blossoms a feminine revolution spreading positivity and light every day a woman's day every day a new fight but we play and we play